Mangia come parli. Mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Buongiorno, bentornati, Mangia come parli. Dopo i funghi della settimana scorsa c'è ancora con me lo chef Oldani. Sono arrivati tantissimi messaggi, tanti SOS Oldani allo 0246 52 41 84. Tante mail, vi ringraziamo. A Mangia come parli, @radio24.it. Tutti i sabati mattina noi siamo qui. Eccoci, chef. Qua, ciao, buongiorno a tutti e... Come stai? Molto Hai bene, mangiato bene? Molto bene, molto bene. Devo dire che mia moglie mi ha, insomma, anche ha apprezzato la buona volontà sulla ricetta della settimana scorsa. Oggi l'ingrediente del giorno è un pomodori. È un re. Vai col è pomodori. Un re. Salsa. È proprio Italia, insalate. Sud. Farciti. Mediterraneo. Tutto, di tutto e di più. È anche una cosa straordinaria. Un piatto al quale io sono legato. È un piatto che ha avuto un valore anche importante sul piano della solidarietà. Uno dei miei piatti preferiti, fra l'altro. Disponibile sia in versione pasta lunga e pasta corta, che è l'amatriciana. Io do il benvenuto al sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Grazie. Sindaco. Grazie. Da dove partiamo? Noi siamo un programma che parla di cibo e, insomma, l'amatriciana era famosa nel mondo e in qualche modo portava in alto il nome del suo paese, così bello e così sfortunato. È stata anche uno strumento importante sul piano della solidarietà, credo. No, ma la matriciana è stata ed è l'artefice, perché la considerazione che faccio è dietro una ricetta c'è la storia, certo, di un popolo, e questi ingredienti che ha, insomma, la matriciana sono proprio degli ingredienti di gente che è abituata a lottare. Esatto. A lottare, e che fanno fare in qualche caso anche a soffrire, allora... No, ma con una semplicità, certo, poi, perché certo, di una semplicità straordinaria, per cui di gente semplice, forte. La matriciana è stato lo strumento che ha permesso a questa nostra, diciamo, comunità di non morire. Sembra una frase banale o scontata, ma non è così. No, ma... Io poi l'ho immaginato sempre, perché ho difeso sempre la ricetta contro l'aglio, le cipolle, perché poi, vedi, è la difesa di un'identità, di un territorio, perché dietro una ricetta, qui c'è la storia dei pastori, delle straordinarie, certo, montagne che oggi sono rimaste intatte. C'è tutto quello, la condivisione della tavola, mi scusi, me la sindaco. Me la spiegate questa difesa? Allora, perché c'è una questione di aglio e cipolla, sindaco? Sì, vabbè, ma sai... Com'è? Aglio, cipolla, pancetta o guanciale? No, beh, guanciale. No, sapete tutto che non ci sta niente di quello, che non c'è né cipolla, né aglio, né pancetta, né altre cose. Neanche guanciale, il sindaco mi conferma, no, questo? Solo guanciale. C'è già la diatriba tra guanciale e pancetta, no, qualcuno dice. Guanciale, la voi immaginate, no? Il guanciale all'epoca, siccome era un prodotto grasso e non c'era l'olio, questo guanciale grasso, come si scioglieva sul fuoco, diventava poi l'olio di oggi. No, no, no, io intervengo un attimo. Posso, sindaco? Qui siamo una trasmissione molto pop e molto anche un po' scherzosa sul cibo. Devo dire che la parte grassa era dettata dalla pancetta, perché il guanciale non è una parte grassa, ha una parte più cartilaginosa. Nostro, sì, cartilaginosa. Non me litigate, alle 9 del mattino. Allora, quello da matrice è totalmente diverso dagli altri. Ecco. Vero. Confermo, sindaco. Allora, sindaco. Diamo la ricetta, sindaco. Ma insomma, la sapete, no? Il guanciale è l'ingrediente principe, poi dopo sono stati introdotti i pomodori dopo, perché c'era il guanciale. Tanto è vero che c'è la gricia, no? C'è la gricia che è la... E quella bianca, pasta, quella chiara. Esatto, guarda, la pasta e un goccettino di vino, ma all'epoca... Ma spaghettone vino... o bucatino? No, sindaco, spaghetto. Ma mezza manica, no? A me piace la mezza manica. Ecco, la mezza manica, È una divagazione del sindaco, però. No, che divagazione del sindaco, io ti ringrazio, perché seconda puntata di Mangia come parli, al quarto minuto e mezzo ho finalmente sentito pronunciare una delle parole più belle. Senti anche proprio come suona, mezza manica. Senti com'è morbido, mezza manica, è proprio straordinario, come anche il rigatone, anche e rigatone. Poi ti do un'informazione, sì, proprio per sancire quello che io dico: si è quasi concluso il processo di riconoscimento dell'STG, entro la fine del mese di settembre saranno concluse tutte quante le procedure, che per STG sta specialità territoriale garantita, Sì. E per cui una volta per sempre avremo il riconoscimento di quella che è la vera ricetta. Ma io la cosa che sottolineo di più è stata la funzione della solidarietà, certo, e il fatto che dietro una ricetta c'è la storia di un popolo. Assolutamente. Ed è per questo che io che l'ho sempre difesa rispetto a delle imitazioni o anche divagazioni che a volte sono ammesse, ma solo per divertirsi. Assolutamente, perché insomma in cucina c'è libertà, c'è creatività, c'è la fantasia, c'è il genio dei grandi chef come Oldani. Complimenti. Ma c'è anche la grande difesa di un territorio. Devo dire che mi ha colpito molto la cosa prima, questo è veramente un piatto bandiera, no? Un piatto che racconta le caratteristiche di un popolo. Ma lei, che è anche allenatore di calcio, ha fatto l'allenatore di calcio, la matriciana prima delle partite, però no. No, per favore. Ti posso dire una cosa, però. Sì. In tre occasioni, il giovedì, sì, per cui qualche giorno prima, io insomma usavo nei momenti clou della stagione di invitare la mia squadra ad Amatrice a mangiare la matriciana. Tre volte su tre abbiamo vinto, certo. Beh, che erano proprio quando ho vinto i campionati, e a ogni fine stagione calcistica io invitavo tutta la mia rosa ad Amatrice, al di là dei risultati, per assaggiare e gustare questo piatto straordinario e abbeverarsi anche dalla bellezza di questo territorio, di questo posto. Ecco, questo l'ho sempre fatto per 24 anni. Assolutamente, ha portato bene, ma insomma non è un caso. A che punto siamo, sindaco? Abbiamo letto qualche polemica sulle tasse in estate, e soprattutto che cosa si può continuare a fare oltre a indirizzare i nostri pensieri? È passato poco più di un anno da quel giorno terribile, a che punto siamo? Allora, noi siamo con la questione tasse, poi insomma avevo ragione, per cui ho fatto levare le infradito ai ministeri per tornare a lavorare il 12 e il 13 agosto, e poi dopo alla fine il 16 è uscito che il sindaco aveva ragione, perché il sindaco aveva studiato, perché senza misure fiscali di sostegno qui non sarebbe ripartito niente, o sarebbe ripartito e poi chiuso per sempre, per cui lì abbiamo vinto. Per il resto, per quello che riguarda la nostra ricetta, è stata inaugurata l'area del gusto, tradizione e solidarietà. L'hanno chiamata all'inizio area food, ma noi siamo italiani, insomma, certo, il cibo italiano. Chiamiamola cibo, chiamiamola cucina. Solidarietà, certo. No, perché c'è tutto. E lì hanno riaperto sei ristoranti che erano stati completamente distrutti dalla furia del sisma del 24. Sta ripartendo il mondo commerciale, anche se con fatica, insomma. C'è anche, sindaco, l'intervento della scuola alberghiera, della scuola di Alma di Parma, con i miei colleghi, sì, con me stesso coinvolto, poi, no, e devo dire che abbiamo avuto molta sensibilità. Siete stati straordinari. Guarda, io ti dico, una matriciana solidale è stata una cosa che mi ha commosso per le motivazioni che vi stavo dicendo prima. Ma non per poi il sindaco, perché anche questo viene fatto con una scuola dove ci sono i giovani, e i giovani nascono, crescono con questa idea, con questo progetto fatto proprio per valorizzare il territorio italiano, e fatto appunto col cuore. Assolutamente. Sindaco, la fermo un attimo perché c'è il traffico, ma rimanga lì, perché altre due curiosità sul cibo gliele devo chiedere. Fra un attimo. Il mio piatto migliore? Quello grande, per le pizze Roncadin. Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta... Mangia come parli. Bentornati a Mangia come parli col sindaco Pirozzi ad ascolto. Ma mi racconti i pomodori? Allora, i pomodori si dividono in tondi e bislunghi. Allora, ci sono pomodori tondi, sì, o quelli allungati? Facciamo tre o quattro nomi. Allora, l'allungato più comune potrebbe essere San Marzano. Queste sono cinque varietà diverse Moro che abbiamo in Italia. Sì. Poi abbiamo il ciliegino per quelli tondi, abbiamo il pomodoro costoluto, il cuore di bue, il pachino fa parte dei tondi o simile, e il tondo insalataro. Quindi sono quelli che prevalentemente che chiamano anche ramati. Ramati. E la matriciana con che pomodori va fatta? No, il sindaco diceva poco fa che lui non mette il pomodoro, quindi la fa quella famosa bianca. Ma io lui mette anche il pomodoro. No, credo di aver capito di no. Sindaco. Sia la gricia che la matriciana, tutte sì, e due. Che pomodoro mette? Quella storica, dopo è stato inserito il pomodoro, esatto, dopo le vicende storiche. di San Marzano. San Marzano. Credo che San Marzano sia quello più corretto per poter fare la pasta, così la matriciana. Sì, approvato. Sta di fatto che io alle 9:15 di mattina di sabato ho adesso voglia di matriciana. Quindi questo è un problema. Poi, che mi porto dietro, no, ma ne parlerò io. C'è un'altra cosa, c'è un po' di formaggio, crede di sì nella matriciana classica? No, il pecorino sempre. Ci sta, pecorino perfetto. Per tutta la vita, anche perché era quel prodotto che dicevo prima dei pastori, di chi viveva la terra. E poi un suo gusto personale, sindaco, la cottura della pasta, visto che siamo italiani, che tipologia di pasta, l'ha detto, quindi lo spaghetto e la cottura naturalmente al dente, perfetto. Sì. Ma mi sembra a corda di violino. Ma cucina bene, sindaco, lei? Le piace? Cosa, scusa? Cucini bene? Ti piace? La matriciana, sì. Piatto bandiera. Ma la faccio con grande orgoglio per i motivi che ti ho detto prima. Assolutamente. Sindaco, noi l'abbracciamo, ovviamente l'abbraccio a tutta la popolazione e a tutte le aree che sono state colpite dal terremoto. Fra l'altro recentemente c'è stata anche Ischia, insomma, è il nostro paese è bello e fragile, mi viene da dire, no? È meraviglioso, ma ha bisogno di attenzione, di cura e anche di un pizzico di fortuna in tante situazioni, e soprattutto del fatto di non dimenticarci che c'è una parte di questo paese che non più tardi di un anno fa ha sofferto qualcosa di terribile e riguarda tutti noi. Quindi un grande in bocca al lupo a lei, alla popolazione di Amatrice, a tutti i comuni che sono stati coinvolti, e complimenti, viva la Matriciana, sempre comunque anche la gricia, che è la sua componente, quella senza pomodoro. Ma noi oggi siamo qui a parlare di pomodoro, caro Dani, dacci due informazioni. Per esempio il ragù, come si fa il ragù? Ma il ragù è un'altra cosa, parliamo di pomodoro, io direi parliamo di pomodoro, è un altro argomento molto, molto moderno, perché è un vegetale, sì. Quindi noi andiamo forse di più sul vegetale che sul resto delle cose. Il pomodoro, avendo più varietà, si può lavorare sicuramente in tante maniere, dalla salsa, dalla famosa salsa, che però io direi di farla con pomodoro crudo. Okay. Sono assolutamente per la stagionalità del prodotto, e il prodotto quando è in stagione migliore per il pomodoro lo sanno tutti, l'estate, naturalmente l'estate, però c'è il pomodoro del pennolo napoletano che si mangia in altro periodo, viene fatto fra maturare. Poco abbiamo un grande ospite napoletano per parlare del pomodoro del pennolo, che è una cosa meravigliosa. Mi hanno regalato un paio di anni fa una piantina, perché è attaccato al ramo, siamo andati avanti tutto l'inverno. Poi si presta per veramente tante cose. La cosa che posso consigliare il più possibile è quella di provarlo sempre e il più possibile a crudo. Quindi la salsa per lo spaghetto non la cuocerei più, la terrei cruda con un velo di olio, e poi metterei la pasta, la forma della pasta che più... Vi metto olio extravergine d'oliva, insomma, al top. Senti, fra poco mi farai il test della ricetta. Vuoi dirmi già che ricetta come al solito pensato? Andiamo su una ricetta molto semplice. Comincia a scrivere, vai. Scrivi, no, ma non devi scrivere. Scrivo, adesso segno due cose. Su, allora, poi io direi radio, un abbinamento molto fresco con l'anguria, la farei, visto che siamo ancora nel periodo. Un'anguria dolce, un pezzo di cuore di bue, visto che abbiamo parlato di qualità diversa di pomodoro, e ti dico che il pomodoro così lo sbuccerei. Quindi appena appena con un coltellino togliamo la buccia, tagliamo un trancio di questo pomodoro e lo abbiniamo, nel caso di insalata, a crudo con un pezzo di anguria. Sì. Altrimenti questa piccola fetta di anguria la passerei in un padellino con un velo di olio extravergine. Ah. Che tiene consistenza. Quindi, e tiene sbollentiamo l'anguria, arrostiamo il termine l'anguria. Giusto è la rossitura, e poi abbinerei con questo trancio di cuore di bue, se vuoi un velo di aceto balsamico tradizionale naturalmente, e due scaglie di sale e un velo di olio extravergine d'oliva crudo, magari un olio un taggiasca che a me piace tanto. Ok, quindi sempre praticamente il nome del piatto è... Ma io direi pomodoro, anguria arrostita e aceto balsamico. Ho il titolo: 50 sfumature di rosso. Fantastico. Vabbè, è vero, ho tre sfumature di rosso, perché qua sono tutte robe cromaticamente molto simili. Per parlare del pomodoro, del suo ruolo straordinario nell'alimentazione, simbolo, poi parleremo anche dell'aspetto culturale legato al pomodoro, ma c'è l'aspetto dell'alimentazione e della dietetica. Benvenuto a Nicola Sorrentino, specialista in scienze dell'alimentazione, dietetica, idrologia, climatologia e talassoterapia. Sì. Professore, come andiamo? Buongiorno. Professore, buongiorno. Buongiorno. Ho visto che la ricetta è eccezionale. È il Cristiano Ronaldo, non so se lei si occupa di calcio, è il Cristiano Ronaldo, è il Messi della cucina, il pomodoro? Sì, è verissimo, ma oltretutto in film pomodoro voi avete visto l'anguria, per cui il principio attivo fondamentale del pomodoro, che sarebbe il licopene, che è un potentissimo antiossidante, lo troviamo anche nell'anguria. E poi tutto sul crudo direi bene, no? Forza questi principi attivi. Ah, beh, fantastica questa cosa. Ma il pomodoro verde... Una curiosità, posso chiedere? Posso, vai, posso devi, professore? Devi. Il pomodoro verde alcuni anni fa era vietato, adesso sembra tornato di moda. Cosa ci dice? Allora, possiamo usarlo nella cucina di tutti i giorni? Sì, nella cucina di tutti i giorni sì, comunque facciamo attenzione, perché il pomodoro, come la patata, il peperone, appartiene alla famiglia delle solanacee, che contengono un principio attivo che è la solanina, che non fa benissimo. Ah. E lo troviamo soprattutto, oltre che nelle patate quando diventano verdi, anche nel pomodoro verde. Per cui il pomodoro deve essere maturo per avere tutte le proprietà nutrizionali benefiche, allora, che abbiamo detto prima. Le ricette, le ricette antiche che prevedevano la conserva di pomodoro verde, quindi la cottura nell'aceto in una parte acida e poi la conserva per l'inverno, l'autunno inoltrato. Queste sono cose che si possono ancora fare, proporre, oppure lei dice... Si possono proporre, sì, perché nella nostra cultura mediterranea delle linee guida della corretta alimentazione non il pomodoro verde possa far male. Uh-huh. Sono determinati tipi di alimentazione come la macro, come la naturopatia, che dicono che contiene la solanina che possa far male, soprattutto quelle che appartengono alla famiglia delle solanacee. Okay. Però in realtà, certamente, se noi mangiamo ogni giorno pomodori verdi, probabilmente ci potremmo porre questo problema. Ma il pomodoro, quindi basta non esagerare, diciamo, no? E la passata di pomodoro ancora meglio. Quella cruda, come dicevo prima, secondo me è il momento giusto, e poi soprattutto farlo nella stagione. La sua polpa vivente è una rossa viscera, un sole fresco, profondo, inesauribile. Pure Neruda ha scritto del pomodoro. Sì, chiaro, questa è la storia. Però io un'ultima domanda, professore. In che momento della giornata lei consuma, e se lo consuma il pomodoro? E che tipologia di pomodoro apprezza o ama? Allora, io sono napoletano, per cui apprezzo i pomodori del Vesuvio. Però tutti i pomodori quando sono maturi e sono freschi, non sono di importazione da altri paesi del mondo, il pomodoro si può mangiare in qualsiasi. La colazione la mattina con un buon tè, un buon caffè o di un pomodoro colazione. Quando io ero ragazzo e andavo al liceo, io la mattina prima di andare a scuola facevo una fetta di pane cavireccio con del pomodoro, i famosi pomodorini, dicevo prima. Bello, è molto spagnola questa cosa. Il famoso pane cafone, però, eh? Bravissimo, il famoso pane cafone, che era un vero pane con lievito naturale, con i pomodorini e con il basilico dell'olio extravergine d'oliva, e non c'è nessuna merenda o nessuna colazione, nessun pasto più sano. Quindi eccoci qua, evviva, inizieremo una colazione mediterranea. Mi piace questa, quindi cosa. Appoggiamo... In Spagna anche negli alberghi ti portano il classico pan tomate che è esattamente che non questo. È come il nostro pomodoro. Mi piace molto il fatto che Sorrentino sia napoletano e che abbia introdotto il tema dei pomodori del Vesuvio, perché fra poco andremo da un grande ospite, mentre salutiamo il professore, andremo da un grande ospite che ci racconterà che cosa significa il pomodoro nella cultura di Napoli, nella cultura del centro-sud, nella cultura mediterranea, anche se poi tu in realtà mi dicevi prima fuori onda che i pomodori in Italia dove si producono. Del sud, perché ci immaginiamo una cucina molto solare, molto mediterranea, molto leggera, però una grande quantità e una grande produzione è fatta tra Parma e Piacenza. E tante grandi aziende straniere vengono nel mese di agosto, c'è la raccolta del pomodoro e ci sono gli studenti per raccogliere qualcosa per arrotondare aderiscono, e quindi tu trovi nei campi intorno a Parma e Piacenza tutti questi ragazzi. Quindi è un fatto più culturale, diciamo, più quasi di identità, pensare che sia ovviamente un prodotto del centro-sud. Poi dal punto di vista produttivo in realtà ci sono zone ed eccellenze ovunque, in varie parti d'Italia. Vi ricordo che c'è l'SOS Oldani, anche oggi abbiamo selezionato i vostri messaggi migliori, le vostre curiosità, e potete continuare a inviarcele con la segreteria telefonica allo 02 46 52 41 84, oppure potete mandarci una mail a mangiacomeparli@radio24.it e il professor Oldani qui al mio fianco vi risponderà e chiarirà ogni vostro dubbio. Fra poco ripartiamo e parleremo di Napoli e del suo rapporto con questo ingrediente straordinario che è il pomodoro. Mangia come parli. Mangia Mangia come parli. Mangia come parli, dedicata oggi veramente a uno dei re della cucina, proprio un simbolo. Adesso scopriremo con che personaggio stiamo per parlare, perché insomma non è soltanto un alimento dalle proprietà nutrizionali importanti, come ci diceva Oldani, non è soltanto ovviamente un grande protagonista della ricetta della matriciana, come ci raccontava prima il sindaco di Amatrice Pirozzi, ma è veramente un simbolo quasi di identità di pezzi molto importanti del nostro paese. Vi ricordo l'SOS Oldani, fra poco 02 46 52 41 84, e do il benvenuto a Maurizio De Giovanni, mio amico intellettuale pop, quindi perfetto per questo programma. Benvenuto Maurizio. Come va? Non osate chiamarmi intellettuale. Ah, va bene. Allora, l'unico insulto al quale non sono disposto a scendere a patti. Senti, per favore, che cos'è a Napoli il pomodoro? Il pomodoro io direi che è un'identità. Innanzitutto in se stesso richiama il sole, richiama un certo tipo di vegetazione, un certo tipo di agricoltura, quindi innanzitutto è identitario per questo. Ma poi soprattutto, naturalmente, dico qualcosa di ovvio e di banale, c'è pomodoro e pomodoro. Certo. Il pomodoro non è soltanto uno, il pomodoro significa gli spaghetti, il pomodoro significa la pizza. Adesso il pomodoro, nella sua forma di questi meravigliosi piccoli pomodori gialli, viene usato anche per altri tipi cromatici di condimento. Quindi direi che il pomodoro sia assolutamente identitario di una cultura alimentare che è specificamente meridionale. Direi che il pomodoro sia una dichiarazione di indipendenza della cucina meridionale rispetto a tutte le altre cucine. Qual è il tuo piatto preferito a base di pomodoro? Ce n'è uno proprio del cuore. Ma adesso parliamo del piennolo, perché io ce l'ho qui il piennolo, che è uno straordinario pomodoro invernale ed è veramente una delle eccellenze d'Italia. Ma c'è un tuo piatto simbolo? Io sono ovviamente profondamente legato alla pizza. Il motivo per cui McDonald's nella mia città non attecchiscono e chiudono dopo poco. La pizza è un punto esclamativo. Il primo esempio è ancora il più compiuto di piatto unico che esista, una cosa che viene abbinata a qualsiasi cosa e che soprattutto è diventato un marchio nel mondo. È un piatto molto semplice, professore, e direi che ha preso piede anche nella grande cucina o nella grande pizzeria, perché se guardiamo adesso anche nella città di Milano, che fino a un po' di anni fa era quasi impensabile, ci sono tante pizzerie con pizzaioli che hanno imparato a Napoli e hanno portato questa arte, questa professione. In effetti è un piatto tra virgolette povero, perché è comunque fatto con acqua, farina, poi pomodoro, poi è riuscito ad entrare anche nella testa dei gastronomi, perché ci sono pizzerie che ambiscono sicuramente a punteggi nelle guide gastronomiche, quindi si è totalmente rivalutato questo prodotto e grazie a Dio lo si è fatto qui in Italia. Devo dire che anche a New York o a Tokyo, dove sono stato, c'è la pizza che la fa un po' da padrone e ci sono pizzaioli fantastici che però sono passati tutti dalla scuola. Sicula, napoletana, comunque la scuola. Beh, del Sud Italia. È una bandiera, prima parlavamo di che cos'è l'amatriciana, ovviamente per Amatrice, come racconti la semplicità e la forza di quel popolo lì, insomma questo è un biglietto da visita per Napoli del mondo, credo, no? Aggiungerei che la pizza ha una sua dignità anche nelle diverse forme, perché la pizza napoletana ovviamente è la più alta, più morbida, ma la sua idea di pizza napoletana che ricorda la sua infanzia e che ci consiglia, o la classica pizza napoletana secondo lei? Assoluto qual è? Cornicione, immagino, no? Pizza alta, perché sai che c'è una... Guardi, la pizza si mangia, la pizza della mia adolescenza è una pizza a gambe a teste, cioè una pizza che va mangiata all'impiedi, sì, in un orario intermedio, tipo alle 11, piegata in quattro e a gambe aperte per evitare colature indesiderate sui pantaloni. Cioè, la pizza a volo che è una cosa meravigliosa che ti riconcilia. Direi che ha la principale funzione non tanto di riempirti lo stomaco quanto di metterti di buon umore. Quindi, assolutamente, che è fondamentale. Ma il rapporto invece fra letteratura, fra scrittura e cibo, com'è? Si scrive meglio dopo una buona cena? Si scrive meglio a stomaco vuoto? Allora, il cibo è profondamente interconnesso con la letteratura. Il libro è un viaggio, se deve essere un viaggio, deve essere un viaggio innanzitutto sensoriale, quindi prima di tutto gastronomico. Quindi sia lo scrittore che il lettore vengono uniti dalle sensazioni, e la sensazione primaria è quella del cibo. Io direi che raccontare una storia senza inserire il cibo, senza inserire la necessità del cibo, il piacere del cibo o il dispiacere del cibo, è assolutamente, assolutamente scrivere male, scrivere poco. Beh, prima abbiamo citato Neruda, ma per esempio le Sarda Beccafico di Camilleri sono, no, credo, un must. Cioè... Ma anche Vasquez Montalbán. Cioè, scrive molto di... Pepe Carvaglio è innanzitutto, certo, un mongussaio. Cioè, sono Nero Wolf, potrei parlare di Nero Wolf molto a lungo. Ma in tutta la letteratura direi che l'elemento alimentare sia veramente il cardine attorno al quale costruire la narrazione. Però l'abbiamo riscoperto in questi anni che nella letteratura, in tutto, c'era questa parte di cibo che era piccola però molto intensa, e leggendo in questi ultimi anni è stata riscoperta tutta questa storia. Senti, parliamo del piennolo, chef, mi dici cos'è? Il piennolo, ma magari ce lo spiega il professore. Secondo me è quel pomodoro che viene raccolto ancora in fase un po' prematura e poi con appeso e lasciato maturare, appeso per poi riprenderlo nel periodo invernale. Giusto, professore? Anche da un punto di vista sentimentale, non secondaria, perché le belle colonne di pomodori che danno colore ai nostri balconi sono anche una dichiarazione di buon cibo in quella casa. Se io tengo i pomodori così, vuol dire che li cucinerò. Ah. Li cucinerò bene. Questo è un'esclamazione che si dà a tutti in merito alla cultura alimentare che c'è in un appartamento. Sai, è una buona cosa, perché con il pomodoro del pennolo magari fare una salsa crudo nell'inverno non è difficile. In questo caso riesci col pennolo ad avere una salsa che ha tutte le caratteristiche organolettiche del pomodoro perfetto, come diceva a poc'anzi il professor Sorrentino. Assolutamente. Ma tu cucini, Maurizio? No, però mangio benissimo. Siamo amici, perché abbiamo pure questo in comune. Siccome siamo troppi a cucinare e pochi a mangiare, io mi iscrivo orgogliosamente alla fine della catena alimentare. Ecco, alla fine della catena alimentare. Va bene, senti, una ultima battuta te la chiedo sul Napoli, perché insomma abbiamo parlato di Napoli. Ovviamente tu hai scritto un libro bellissimo che parla del caffè, forse anche del caffè potremmo parlare per un attimo, perché ce lo raccontava Andrea Bocelli nella puntata precedente, una settimana fa. Il caffè è qualcosa che racconta anche, soprattutto a Napoli, soprattutto il caffè, diciamo, non con i ritmi vorticosi che ci sono oggi nelle macchinette. A me fra l'altro piace l'espresso delle macchinette, devo confessarlo, però l'attesa, no? Il senso dell'attesa è qualcosa che il caffè nella sua forma tradizionale racconta meglio. E tu hai scritto un libro ambientato in questo bar con questo professore, il quale si parla del Napoli. Allora ti chiedo una cosa sul caffè e una cosa sul Napoli. Il caffè, lo scudetto lo vince tutti i giorni, il Napoli lo vince lo scudetto quest'anno? Il caffè è una dimensione dello spirito. Il caffè è il momento che uno prende per se stesso. Infatti noi a Napoli diciamo prendere il caffè, non bere il caffè. È una distinzione semantica che ha un suo peso, un suo interesse. Prendere il caffè significa prendersi una pausa, prendere un momento per se stessi. Il Napoli ha una squadra che è cambiata non cambiando. Nel senso che ha preso coscienza, ha preso consapevolezza, alcuni degli elementi non ritenuti pronti dall'allenatore ora lo sono in maniera evidente. Il secondo tempo con l'Atalanta è abbastanza emblematico. Certo. Ma mi viene da pensare che alcuni sono maturati, un po' come i pomodori. I tempi della vita sono questi, per cui insomma, senza voler dare del pomodoro a nessuno, che comunque è una cosa nobilissima, ci sono dei tempi di maturazione particolarmente importanti. Io ringrazio Maurizio Re Giovanni. E a questo punto, niente, speravo mi cucinassi qualcosa, ma andremo a cena insieme, perché mi pare che sia... Andremo dallo chef. Ti aspetto, assolutamente. Anzi, se arrivi con noi, fra poco, vediamo se ho capito, farò la ricetta, le sfumature di rosso, intese come pomodoro, anguria, spero di aver capito qualcosa. Sì, ci siamo. Molto interessante, molto innovativa dello chef Oldani. Grazie a Maurizio Re Giovanni. Grazie. Ci saluti il commissario, ce lo abbracci. Con anche rispetto a loro Iacono, cioè li saluti tutti e due, perché sennò poi uno si offende e poi Ricciardi dice saluto Ricciardi, ma saluto lo Iacono. Va bene ragazzi, ripartiamo tra poco, c'è l'SOS Soldani, sei pronto? Sono arrivati una marea di messaggi allo 02 46 52 41 84. Fra poco cercherò di capire se ho capito realmente, sono in grado di rifare la ricetta del pomodoro con l'anguria e l'aceto balsamico, che è veramente molto molto interessante. Tutto poi c'è anche la canzone, anche quella un po' napoletana, Mangia come parli. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta Mangia come parli. Bentornati a Mangia come parli. Abbiamo ascoltato il piatto bandiera della Amatriciana e quanto è stato importante per il sindaco Pirozzi e per la gente di Amatrice e di tutto il centro Italia. Abbiamo ascoltato il valore simbolico, identitario del pomodoro nella cultura di Napoli, il ruolo della pizza, la solarità ovviamente di questa città straordinaria. Adesso io voglio sentire, in attesa dell'SOS Soldani, qualche altra cosa che non sappiamo su questo meraviglioso ingrediente. Così mi viene da dire una cosa che facevo tanti anni fa quando ero all'inizio della mia carriera. L'acqua di pomodoro che aveva questo profumo intenso di pomodoro, però era bianca. Certo. Quindi utilizzavo naturalmente in stagione il pomodoro, veniva frullato e all'epoca, ormai parlo di più di 30 anni fa, si appendeva con uno straccio nella cella frigorifera, si faceva colare per tipo 24 ore e alla fine della giornata avevi questa acqua che poi si utilizzava come bevanda o come aggiunta a salse di abbinate a pesce, dove non volevo che magari ci fosse il colore rosso e l'impronta forte. Ok, c'era solo soltanto gusto. Un po' di profumo, di sapore, ma senza essere invadente. Esatto, con la parte un cromatica. Una salsetta timida, un pomodoro timido. Sì, però con grande personalità, perché alla fine l'essenza di questa salsa era l'inizio della leggerezza della buona cucina. Quindi questa era una piccola chicca che ci si divertiva a fare in cucina. Assolutamente. Il pomodoro tu lo consigli sempre crudo? Lo consiglio prevalentemente crudo. Se si dovesse cuocere, questa è un'altra piccola chicca, lo farei appena candito, vuol dire che lo sbianchisci con un po' di acqua, lo sbucci, poi tagliato a quarti e cotto in forno per tipo 40 minuti a 80 gradi con un po' di sale, un po' di erbe, un goccino, un velo di olio. Ti piace? Così intensifichi, perché l'acqua di vegetazione evapora e l'intensificazione del gusto del profumo del pomodoro si esprime al 100%. Bene, SOS Oldani, jingle! SOS Oldani. Allora, vi ricordo che potete contattarci, la segreteria telefonica è attiva sempre allo 02 46 52 41 84 e questo è lo spazio proprio cult di questo programma, perché proprio è lo spazio delle domande semplici, dei dubbi, delle piccole curiosità, dei trucchi che volete chiedere. Ad esempio questa mi piace, Matti. Davide da Manfredonia, facci sognare. Come si fa a mantenere, qual è il segreto per mantenere bella cremosa e la crema base di formaggi in piatti anche semplici come possono essere la gricia o la cacio e pepe? Qual è il segreto per evitare che vada a rapprendersi e fare un unico polpettone con la pasta? Grazie. Ecco, tra adesso a questo punto abbiamo cominciato con la Amatriciana, abbiamo sentito del Giovanni, il popolo del Piendo, la pizza, adesso la cacio e pepe, è una tortura, non è una trasmissione, cioè veramente... Io esco sbrano il primo ristoratore. Guarda che è un buon modo per mettersi in forma anche. Certo. Immaginare il gusto. No, io direi solo una piccola operazione da fare. Lo farei con un goccio di latte, lo farei bollire, lo allontanerei dal fuoco, aspetterei quei 2 minuti per portare a una temperatura di 70 gradi più o meno. Aggiungerei il formaggio, in questo caso il cacio, un buon cacio, magari stagionato, giusto, grattugiato. Poi con una leggera frusta o un cucchiaio lo farei sciogliere appena appena, perché cosa succede? Il cacio rapprende o caglia o straccia quando c'è una temperatura sopra o che arriva a 100 gradi, quale è il latte. A questo punto, se hai un latte tiepido, aggiungi il formaggio grattugiato e tu avrai una salsa molto setata e molto buona. Più equilibrata, aggiungerei, diciamo, un cacio e pepe con una buccia leggera di essenza di limone. Di la limone. Buccia del limone. Lo so che questo l'ho assaggiato, l'ho assaggiato. La mantecatura è tutto nella vita, ragazzi. Alessandro da Napoli. Ma è vero che per fare un ragù buono deve pippitare tante ore oppure deve solo riposare? Pippitare, perché ci sono anche ideologismi, è un dialetto, è una storia, è un qualcosa dove c'è una cottura lenta. In francese si chiama mijoter, quindi ognuno mise a te. Vuol dire una cottura lenta che non è brasare, ma è tra brasare e bollire più o meno. Quindi io credo che un buon ragù, per stare nella tradizione, vada cotto molto. Farei un punto su questo e selezionerei delle carni che siano all'altezza. Certo. E quindi poi deciderei. Nel caso tu volessi fare un ragù con una carne trita, secondo me non ha necessità una cottura di 5 ore. Però questa parola pippitare mi ha fatto pensare alla famosa frase, no? L'attesa del piacere, esso stesso il piacere. E qua è proprio mentre pippita, mentre si vede proprio che si cuoce. Senti già i profumi, siamo, però deve... Poi c'è De Luca, io ho pure De Luca. De Luca è una specie, è un uomo ragù, nel senso buono ragù del termine. Mi fa pensare veramente che poi al pranzo di Natale a Napoli, una cosa lo meravigliosa. Chiamano alla genovese, giusto? La genovese che... napoletana, sai, c'è tutto un mix. Però poi un giorno ne parliamo della genovese, è un'altra eccellenza partenopea. Questo piatto carne, vabbè, basta. Gilberto da Milano, aiutaci tu. Ma c'è pure Gilberto, adesso ci dà il colpo di grazia. Gilberto, quando devo sfumare il risotto col vino bianco? Durante la fase della cottura della cipolla? Questa domanda devo essere un po' più incisivo, nel senso che per dare un valore a un piatto quale è il risotto io non metterei nessun soffritto, né cipolla, né burro, né olio, né nulla. Farei tostare a crudo il riso, e facendolo tostare a crudo tu avrai un buon profumo di cereale, cosa che non succede se tu usassi il soffritto. Quindi perché si mescola troppo? Ma no, perché c'è l'intensità della cipolla, c'è l'intensità della cipolla, c'è l'intensità e la pesantezza del soffritto. Certo. Quindi tu sai, tu me lo insegni che la cucina deve essere leggera, gustosa, ma leggera, certo. Ecco, giusto. Io ne ho fatto una bandiera. Assolutamente. Quindi, solo tostato, Tostato, io suggerirei di provare a tostarlo senza grassi all'interno e sentire quando il riso emana quel profumo di cereale che diventa fantastico, e a quel punto può variare se farlo alla monzese, se farlo alla napoletana, se farlo col radicchio o qualsiasi altra tipologia di ingrediente. Valentina da Cosenza. Sono sola a casa, che ricetta posso fare con 3 ingredienti? Allora, solo a casa, che ricetta posso fare? Non sono? So quale Valentina, sia la sua dispensa. Pure tu, Valentina, dici 3 ingredienti. Ma immagino, io posso immaginare una dispensa di una persona che magari non si è preparata per poi cenare, quindi guarderei nella dispensa. La dispensa di solito metti i prodotti che sono a lunga conservazione. Uno di questi può essere la pasta, certo. Giusto? Oppure può essere un abbinamento, qualcosa in scatola. Pasta, basilico, un'acciuga. No, un'acciuga che magari ti trovi così spersa nella dispensa. Poi magari apro il frigorifero e in frigorifero trovo un pezzettino di formaggio stagionato. E che ci facciamo con l'acciuga? Facciamo una cottura di una pasta normale e poi aggiungerei questa acciuga appena appena tritata per condirla fuori dal fuoco senza più cuocere, un goccio d'olio e poi basta, la servirei così, me la mangerei così. Devi il formaggetto sopra non ci sta male. Sì, alla fine una grattugiata, credo, verso la fine. Mi piace lo spago con le lisci col contrasto del formaggio. Anche magari se ci fosse un peperoncino, perché sai che sono sempre magari lì appesi ad aspettare di essere consumati, c'è sempre. Insomma, se quantità... oltre ai 3 ingredienti, Valentina, dovessi trovare per caso un peperoncino che gira per casa, non esitare, fanne buon uso. Chiudiamo con Francesca da Roma. Ma c'è una ricetta di carne che si può abbinare ad un buon vino bianco, magari? Questa è una bella domanda, perché nella parte della classicità della cucina italiana le carni durante le cotture, anche le lunghe cotture, venivano sfumate con il vino. Io darei un suggerimento un po' più moderno, un po' più attuale, dove farei una cottura della carne senza vino e berrei, come dice Francesca da Roma, lo berrei un grande vino bianco abbinato con una carne, magari una carne, anche una carne rossa, che può essere vitello, che può essere manzo o addirittura un volatile. Perfetto, la ricetta del giorno adesso devo riuscire a dirla io, pena che qui non so cosa, ma insomma... Facile. Allora ho deciso che la chiamiamo 3 sfumature di rosso, perché abbiamo accostato il pomodoro... Sei un poeta. Il pomodoro cuore di bue con l'anguria dolce, quindi sono due, anche dal punto di vista cromatico, due rossi, no? Sono due rossi. Molto semplice. Io prendo il pomodoro cuore di bue, lo taglio, tagliuzzo la buccia, Pezzi irregolari. Neanche riesco a leggere la mia calligrafia, pezzi, che confusione sono. E taglio la buccia, poi lo, non mi ricordo, lo sbuccio, lo sbuccio, poi lo taglio a tranci irregolari, che secondo me è un disordine controllato che fa anche d'arte. Nel frattempo prendo l'anguria dolce e la metto sul, sul fuoco. Se vuoi una piccola padella appena calda con un goccio di olio la fai arrostire, giusto per darle quella, quella succulenza e quella dolcezza in più. Poi l'appoggerei a fianco al pomodoro. Poi metto delle scaglie di sale sopra che, sale mi, vanno, che mi vanno a fare contrasto con il dolce tocco dell'anguria. Lo esaltano e poi manca un po' di acidità. E allora aceto balsamico. Perfetto, ma tradizionale. Tradizionale. Assolutamente. Ce l'ho fatta anche stavolta, anche se non ci avevo capito molto. Però una cosa è certa: mentre cucino, ascolto una canzone. L'ho visto oggi, mi ha parlato molto di Sud, molto di Napoli. Una canzone mi sta particolarmente a cuore, che ho usato tanti anni fa. Non è che l'ho usata scientemente, ma insomma, che è venuta fuori durante un colloquio per entrare in un'azienda. Fra l'altro, un'azienda facevo marketing. Ed è Senza giacca e cravatta, che è una canzone, secondo me, simbolo, bandiera della città di Napoli, di un certo modo di stare al mondo, della semplicità che abbiamo noi italiani. Ed è un concetto che si lega a quello che abbiamo detto con Pirozzi per Amatrice e al nostro cuore da italiani, ed è bellissima. Nino D'Angelo. Quanta strada ci ho fatto passagli sta fortuna, mezza gente distratti, io non ero nessuno. Quanta notte c'è data per scalare il mondo, mia se figlio scordata ci ha pisa paura. Vabbè, no, è meglio che canti Nino D'Angelo, su questo non ci sono dubbi. Canzone straordinaria, quella di Nino D'Angelo, che racconta insomma la semplicità e la, la bellezza di venire dalla strada, no? Di venire dalla working class e realizzare i propri sogni e i propri progetti. Continuate a scriverci SOS Oldani 02 46 52 41 84 per tutti i vostri dubbi, le vostre curiosità. La mail è mangiacomeparli@radio24.it. Oggi abbiamo celebrato un grande, prima dicevo Cristiano Ronaldo, Messi. Il pomodoro è veramente in cucina una delle cose più imprescindibili, quindi complimenti a Roberto Baggio della, della cucina italiana e non solo. Grazie allo chef Oldani. Grazie a te Pier della compagnia. E noi ci rivediamo, anzi ci risentiamo, che poi De Luca mi dice: ma che ci rivediamo? Stai in radio? Ancora non hai capito che stai in radio. Ci risentiamo sabato prossimo alle 9. Ciao.